Ora, leggendo queste prediche che commentavano questo capitolo quinto dell'Indemoniato di Gerasa, io sono rimasto abbastanza meravigliato, anche se me l'aspettavo, che pochi sottolineano e commentano interamente questo episodio di esorcismo. C'è chi sottolinea, evidenziando l'ottusità di quegli abitanti, che sono stati più attenti al danno dei porci affogati piuttosto che alla liberazione di questo disperato, che era un pericolo anche per la regione. Un altro commento era totalmente fuori tema. Un altro commentatore, invece di parlare, è scomodo parlare del diavolo, è scomodo. E allora parlava di guarigione interiore di questo poveretto. Ancora qualcuno parlava dell'autolesionismo causato dal demonio, si riferiva che quello che girava tra le tombe, sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. E poi si allude anche all'altro episodio del Vangelo in cui si parla che uno si gettava, quando era posseduto da queste crisi, diaboliche, si gettava nel fuoco. Qualcun altro, finalmente, parla effettivamente di un indemoniato e tuttavia nel suo commento ripete la solita manfrina che ormai io conosco a memoria. E vi riporto la citazione. Al tempo di Gesù molte manifestazioni incomprensibili erano ricondotte al demonio e anche degli eventi patologici come le malattie psichiatriche. Avete capito? Tratta questo come un povero malato schizofrenico. E invece qui, in questo capitolo quinto di Marco, passo passo è descritto un vero e proprio esorcismo fatto direttamente da Gesù. Anzitutto si nota la forza sovrumana di quest'uomo che pur legato con ceppi e catene le rompe. E infatti gli esorcisti notano che le persone possedute hanno una forza che ben conoscono e che deve essere contenuta con l'aiuto magari di 4, 5, 6 persone per trattenere una sola persona. Secondo, è un vero esorcismo perché costui riconosce Gesù da lontano. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: "Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi." Alcuni, anche sacerdoti, dicono che si scambiava a quel tempo gli indemoniati con i pazzi, con gli ammalati, con gli epilettici, con gli schizofrenici. Io non ho mai sentito un epilettico che fa questa dichiarazione di fede: "Ti scongiuro non tormentarmi. Tu sei il figlio del Dio Altissimo." E questo capita ancora a me. C'è gente che arriva normalmente in macchina come arriva al cancello di casa mia, da fuori, da essere preso e portato dentro. E di questo sono testimoni anche alcuni qui del paese che mi aiutano, come i miei collaboratori. È impressionante vedere persone che cambiano appena varcano la porta di casa mia. E poi ancora qui dice: "Il mio nome è Legione." Quando il demonio prende possesso di una persona, non è mai da solo. Sono in diversi, alcune volte in tanti. Legione sono centinaia di persone. È capitato anche a me che durante un esorcismo il demone dicesse: "A me, legioni di demoni." Allora io ho invocato San Michele Arcangelo, oh San Michele, chiama tutti i tuoi angeli, perché altrimenti qui finisce male. E ancora un aspetto per dire che è un vero esorcismo, questi demoni non vogliono essere scacciati via dal posto, dalla regione. Lasciaci qui, scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. Quante volte anch'io negli esorcismi dico, chiedo al Signore che ti mandi all'inferno. No, all'inferno no, io sto bene qui sulla terra. E ti viene quasi ma è possibile? L'inferno non piace neanche ai diavoli, che è la casa loro. Cari amici, come dovremmo proprio vivere santamente per meritarci il paradiso e per sfuggire l'inferno? O alcune volte dice, non me ne vado da questa persona perché è mia, io sto bene qui. Terribile. E infine, dopo la liberazione, questo ex indemoniato è un'altra persona. Videro l'indemoniato seduto, vestito, sano di mente, e gli piglia la paura alla gente, perché vedono un cambiamento incredibile. Anch'io dopo la liberazione vedo le persone che hanno uno sguardo bellissimo, uno sguardo di cielo, e quella è la prova più evidente che il demonio è stato scacciato. E alla fine c'è questa parola: va nella casa dai tuoi, annuncia ciò che il Signore ti ha fatto, testimoni. È quello che io sto facendo con voi, cari cristiani. Sto testimoniando la verità di questo Vangelo. Certo, solo un esorcista che fa realmente gli esorcismi può capire in pieno questo brano, e credo che anche gli altri sacerdoti, se non hanno provato a partecipare a qualche esorcismo, non riescono a capire bene questo brano, perché è un vero esorcismo di Gesù. E allora vorrei con voi offrire questa santa messa perché il Signore conceda alla sua Chiesa tanti sacerdoti che credono nella potenza liberatrice di Gesù Cristo, che credono all'esistenza del diavolo vinto, scacciato dal sangue di Cristo, e che accettino di fare gli esorcisti. So che i vescovi in genere fanno molta fatica a trovare preti che accettino di fare gli esorcisti. E poi preghiamo perché la comunità si stringa attorno all'esorcista. Io ho diversi, anche di qui della nostra parrocchia, che collaborano con me, sia pregando, sia partecipando agli esorcismi. Adesso per favore non ditemi voglio venire anch'io, perché me lo chiederesti per curiosità. La curiosità è un peccato. La partecipazione alla preghiera è una grazia.